Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Vorrei suonare il rock e l'elettronica, portare un orecchino d'oro. Se non avessi dentro quella musica che ancora oggi mi innamora. Ragazzo con la testa tra le nuvole. In realtà, avere la testa tra le nuvole ha i suoi vantaggi. Secondo la ricerca, chi si distrae, crea. In linea con noi la dottoressa Giovanna Luini, medico e responsabile della comunicazione scientifica di IEO. Ma bentornata, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Meglio la testa tra le nuvole che i piedi per terra. Ah sì, è la mia riscossa, è una notizia per questo bellissima. Ho invitato lei. Sì. C'è una ricerca bellissima, oltretutto assolutamente credibile perché è portata avanti da un gruppo internazionale, pensate, ricercatori dell'Università della California Santa Barbara, ricercatori tedeschi del Max Planck Institute e del Dipartimento di Psicologia della British Columbia. Insomma, questi insomma, ricercatori tante teste, hanno... diciamo, dottoressa Luini, sì, testoni, veramente. Direi. Ah sì, enormi, che hanno radunato un po' di volontari e hanno chiesto a questi volontari di usare un oggetto come volevano in modo creativo. Perché? Perché volevano vedere quali soluzioni varie avrebbero trovato questi volontari per usare un certo oggetto. Hanno detto, allora voi avete questo oggetto, decidete in più modi di utilizzarlo, fatene qualcosa in modo creativo. E hanno anche suggerito quattro modi per fare questa, per prendere questa decisione. Un modo era concentrarsi unicamente, totalmente sul compito da eseguire. Un altro modo era darsi nel frattempo a un'attività diversa e poco impegnativa, oppure prendersi 12 minuti di pausa, oppure ancora saltare la pausa e buttarsi nuovamente su questo compito. Ebbene, dalle scelte dei partecipanti e dai risultati che hanno ottenuto nel risolvere il compito, i ricercatori hanno scoperto che i migliori risultati li hanno ottenuti coloro che, dopo aver valutato attentamente il problema, si sono poi dedicati a un'altra attività poco impegnativa. Questi soggetti sono stati poi quelli che di tendenza sognavano sempre a occhi aperti, anche durante lo svolgimento del compito. Secondo gli autori dello studio, un elevato livello di sogno a occhi aperti, quindi quell'essere apparentemente un po' svagati, è da associare a una migliore performance creativa. Attenzione, credo che l'importanza della scoperta sia legata anche al lavoro, perché sì, è bello dire siamo creativi, ricordatevi che però essere creativi significa avere davanti un problema e sapere come risolverlo, perché se hai davanti un problema devi trovare tutte le vie possibili per risolverlo e quella è creatività. Quindi che cosa hanno scoperto i ricercatori? Che se ho davanti un problema posso risolverlo meglio se ho la testa un po' tra le nuvole, se mi dedico a cose un po' più leggere, senza perdere di vista il bersaglio, perché? Perché riesco a trovare tutte le vie, anche quelle più strane e inusuali, per risolvere il problema stesso. Quindi, dottoressa Luini, se i nostri ascoltatori hanno un problema, un compito, devono trovare una soluzione, l'invito è svagatevi, ascoltate Essere Benessere e subito dopo il programma, come una magia, la soluzione arriverà. Posso... Sono convinta di sì, ne sono sicura, io faccio così. Va bene, grazie dottoressa Luini. A voi, buongiorno. Buongiorno. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto adesso. Il mondo gira intorno a noi o siamo noi che giriamo intorno al mondo? Intanto saluto il professor Giorgio Guidetti, responsabile del servizio di audiovestibologia e rieducazione vestibolare all'USL di Modena, ospedale Ramazzini di Carpi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sono quasi emozionata, finalmente la vedo. qua in carne e ossa negli studi di Radio 24 di Milano. Professor Guidetti, sembra uno scioglilingua, la domanda però che le ho fatto è abbastanza pertinente perché ci aiuta a capire di più di un disturbo diffuso che si chiama vertigine e che spesso noi descriviamo per l'appunto come la testa tra le nuvole, di cui abbiamo proprio parlato e con cui abbiamo introdotto la puntata di oggi. Sì, è vero, ci sono sotto la parola vertigine diversi capitoli. La prima domanda da fare a una persona che si lamenta di soffrire di vertigini è: ma è il mondo che ti gira intorno o sei tu che ti senti in centrifuga? Intanto perché ci permette già di capire meglio quali sono gli organi eventualmente implicati nel disturbo e poi perché ci permette di entrare con maggiore precisione nel rapporto con il paziente e che impara ad usare i termini più consoni, a descrivere esattamente quello che è, a facilitare quindi la diagnosi e un domani anche la possibilità di guarire. 800 24 0024, un numero verde per ancorarvi se avete la testa fra le nuvole, se soffrite di vertigini, ma anche un numero da verde da chiamare se siete ben radicati a terra. Alcuni di voi ci hanno scritto perché abbiamo proprio stimolato i vostri interventi su Facebook. Katia mi scrive: purtroppo come mamma e donna di casa sono ben piantata a terra, ma quando mi rilasso, perché il marito prende momentaneamente il mio posto, sono tutta per aria, piena di idee e progetti non sempre concreti. Conferma ancora, come ci ha spiegato la dottoressa Luini, che avere la testa tra le nuvole aiuta a creare. Silvia ci scrive: totalmente sulle nuvole, tanto da non riuscire a concentrarmi nemmeno sul lavoro, un disastro. Professor Guidetti, abbiamo parlato di testa tra le nuvole, ma quando, a volte non è la testa a girare, ma il pavimento a muoversi, a basculare. Eh sì, succede per esempio a tutti quelli che hanno fatto un'esperienza come un lungo percorso in nave, un tragitto su uno yacht o semplicemente su un traghetto e scendono a terra e hanno la sensazione, quello che si chiama il mal di sba da sbarco, hanno la sensazione che la terra si muova. Beh, naturalmente è una sensazione particolarmente spiacevole perché intanto ricorda delle sensazioni orribili come il terremoto. E anche involontariamente mette sull'allarme. Ma in realtà è soltanto dovuta al fatto che noi abbiamo un cervello che registra e si abitua a tutte le condizioni, però fa fatica poi a dimenticarsene. Quindi ci succede, per esempio, che tu ti senti vacillare mentre pensi che sia la terra che si muove, è soltanto la tua mente che si ricorda le oscillazioni che hai avuto sulla nave. Ma professor Guidetti, questo è valido anche per le vertigini? E certo, la vertigine ha il difetto di essere un'emozione molto molto forte che spaventa la prima volta soprattutto che uno la prova. Immaginatevi di vedere il mondo che va in centrifuga o di sentirvi girare senza che fosse da voi desiderato, come quando da bambini si gioca. Insomma, questa sensazione ti mette la paura e naturalmente implica che poi man mano tu abbia il terrore che questo ti possa ricapitare. Ci Certo. sono patologie ricorrenti dove veramente ricorre l'episodio di vertigine vera, ma ci sono anche molte situazioni in cui una persona continua ad avere la paura che questo succeda ed E è non come succederà e più. non succede. Ma voi siete in grado adesso di dire ad una persona che ha provato una vertigine se l'episodio si ripeterà o se rimarrà isolato? Diciamo che è possibile prevederlo una volta che hai capito bene qual è stata la causa che ha provocato tutto ciò. C'è un dato che mette insieme, molto interessante, sono degli studi fatti di recente, mette insieme la realtà di ciò che avviene e la paura di ciò che potrebbe avvenire. È stato dimostrato che se un soggetto che ha avuto una vertigine acuta mantiene la paura che gli ricapiti per delle settimane o dei mesi, è quasi certo che svilupperà una vertigine cronica sotto senso di instabilità, anche quando in realtà ciò non Niente. esiste più. E più è lungo il periodo dopo l'attacco in cui viene mantenuto questo senso di panico, di angoscia, di paura, di terrore che questo possa riprodursi, più è sicuro che ciò avverrà. Perché dentro il nostro orecchio, in fondo, c'è una centralina che si occupa del nostro equilibrio, che può andare in tilt. Succede per le vertigini e succede per quello che viene chiamato disequilibrio, due condizioni che oggi indagheremo, insieme anche ad altre sensazioni che ci arrivano da questo organo raffinato deputato al nostro equilibrio, ma anche dall'orecchio in sé, che sono i fischi, gli acufeni, i ronzii. Professor Guidetti, perché questa centralina che è nata e creata proprio per farci stare bene in equilibrio, bene, con i piedi per terra, a volte si non so se posso dire si Si rompe, può anche ma dire sì, no? insomma, perde qualche colpo. Succede per i motivi più vari. Abbiamo dei sensori raffinatissimi, anche se sono sostanzialmente meccanici, che sono posti all'interno del labirinto e che sono deputati a leggere la velocità e la direzione in cui muoviamo la testa. Sono deputati a leggere l'accelerazione, diciamo, lineare, cioè per esempio la forza di gravità, e la leggono sia nell'orecchio di destra che in quello di sinistra. È come avere due redini, bisogna che queste due redini siano sempre nella lunghezza giusta. Se c'è un errore, perché c'è stata un'infezione, perché c'è stata una malattia vascolare che ha portato a danneggiarsi uno di questi sensori, siamo come su, diciamo, una bilancia sbilanciata, perché la parte di destra e quella di sinistra non lavorano coordinate, e questo dà vita a delle sensazioni molto spiacevoli, come dicevamo prima, o il mondo che gira o la sensazione di girare. Poi c'è l'altro difetto, purtroppo, e queste sono quelle che chiamano le vertigini periferiche. Generalmente in questi casi hai una vertigine violentissima col mondo che ti parte davanti, che può durare minuti o ore, è una sensazione orribile. Ma poi c'è un altro difetto del sistema, che in realtà non sarebbe un difetto, ma sarebbe la salvaguardia, è che queste informazioni salgono al cervello e al cervelletto, dove vengono elaborate, mischiate con altre sensazioni e con le emozioni. E a quel punto ecco che anche un problema negli organi che ho appena detto, cioè nel cervello e nel cervelletto, Può sono, può dare vita a delle certo. sensazioni fastidiose. In questo caso è raro vedere il mondo girare, ma disequilibrio, difficoltà di stazione eretta, sensazioni di caduta o cadute vere. Quindi tra la testa, tra le nuvole, i pavimenti, che si muovono, insomma, diventa difficile rimanere in equilibrio. Ma professor Guidetti, dipende sempre da questa centralina, quella paura che molte persone avvertono e che definiscono come vertigine quando, ad esempio, si affacciano, da un balcone un pochino alto, vanno in montagna, fanno una passeggiata, non possono guardare giù perché proprio vengono le vertigini, questa paura dell'alto o paura di cadere. Sì, generalmente le persone usano la parola vertigine per indicare proprio questa paura dell'altezza. In realtà c'è un meccanismo che ormai conosciamo molto bene, che può provocare questa sensazione fastidiosa, ed è legata banalmente al fatto che di solito noi vediamo l'orizzonte, diciamo mediamente 1,50, 1,70 o 2 metri al di sopra del pavimento su cui appoggiamo. E in questo caso invece la nostra mente si rende conto che c'è uno sbalzo. L'orizzonte è molto più in alto rispetto al reale pavimento, e questo ci crea un senso così di fastidio. Accanto a questo c'è però anche la possibilità che si scateni un meccanismo fobico, quella che si chiama l'acrofobia, quella che dà il terrore anche semplicemente a salire su un panchetto, su una sedia, ecco, sui primi 3 gradini di una scala. Ecco che questo è chiaro che è l'evento emozionale che prende la prevalenza su quello che è il momento fastidioso che può provare chiunque di noi per questo bisticcio di sensi. È strano perché ci piace andare in alto. Volare, abbiamo fatto tante prove e poi, spesso quando siamo in alto ci viene quasi paura, come se il nostro cervello ci avvertisse che bisogna essere preparati, competenti oppure usare la testa. E proprio così, in realtà noi ci divertiamo a usare i segnali vestibolari, per esempio al Luna Park, oppure ci divertiamo a avere la sensazione di potere salendo in alto, e tutto ciò ci fa piacere solo nel momento in cui è tutto controllabile, quando siamo sicuri e certi che quello che stiamo facendo non ci arrecherà dei danni. Ma quando la stessa emozione invece ti colpisce senza che tu riesca a dominarla, è chiaro che si sconvolge tutto il resto. Abbiamo Ennio, ci chiama da Roma all'800240024. Buongiorno Ennio. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ho sentito della trasmissione. Volevo porre non uno, ma tre molto veloci di quesiti al al dottore. Allora, volevo sapere se io dopo diverse immersioni praticamente ho un fischio perenne su un orecchio sinistro. Volevo sapere se questo fischio, questo sibilo combinato con la cervicale può causare vertigini. La seconda domanda era se la carenza di potassio può anch'essa causare vertigini. E la terza è che praticamente ho visto che ai cambi di stagione mi succede comunque molto spesso. Insomma, Ennio, meno male che ha solo due centraline di equilibrio, perché sennò facevamo un bignami. Professor Guidetti, allora è pronto? Sì, l'ha mandata in confusione queste domande? Sono domande abituali, sono anche domande molto interessanti. Allora, intanto c'è un primo problema. Una immersione non dovrebbe provocare acufeni e neanche altri problemi. Se li provoca vuol dire che è successo qualcosa nei circuiti e bisogna anzitutto stabilire che cosa è successo. Il rapporto poi fra un acufene e le vertigini, l'acufene è un segnale d'allarme, la vertigine è un sintomo che va oltre il segnale d'allarme, che vuol dire che appunto a maggior ragione bisogna per esempio rendersi conto che non ci sia stato un barotrauma, cioè che un errore per esempio di compensazione, può aver nel senso di non avere fatto in modo che la pressione esterna sia compensata dall'interna con le manovre adeguate per tenere la tuba ben aperta, potrebbe aver causato un barotrauma all'orecchio, nel qual caso bisogna poi diciamo provvedere. E dipende dal tipo di lesione, dal danno, dall'entità, insomma sono vari fattori da prendere in considerazione, bisogna valutarli accuratamente anche in modo strumentale. Per quanto riguarda il potassio, il potassio non è semplicemente una cosa da prendere quando uno è stanco, è una molecola che ha una sua capacità di azione molto importante. È chiaro che un eccesso o scarsità di potassio va a creare tutto un guazzabuglio all'interno del funzionamento delle cellule, quindi è in grado di provocare anche disturbi dell'equilibrio. I cambi di stagione invece lo provocano proprio tipicamente. Un po' di scombussolamento. Ma adesso ormai l'estate è partita, quindi il cambio di stagione dovremmo averlo superato. Anzi, siamo pronti per partire. Magda, per l'amor di Dio, fermati. Ma scusa, Furio, ma che cosa ho fatto? No, non si dispongono i bagagli dentro una macchina così. Tesoro, quando compi queste operazioni devi sempre tener presente di dover comporre un mosaico. Ogni cosa deve combaciare con l'altra. Senti, tesoro, allora vediamo un po'. Tutto quello che dovevi fare l'hai fatto? Sì. Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale? Sì. Le persiane le hai sprangate? Perfetto. La sacca e i documenti l'hai presa? Sì. Codice fiscale, carta d'identità, partita IVA? Sì. Perfetto. Termos latte, termos acqua e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino? Sì. Perfetto. Manca un minuto alle 7:30. Quasi l'impiego per richiamare l'ACI, d'accordo? Si chiama chinetosi, una parola sola per descrivere una serie di sintomi molto fastidiosi come la tachicardia, la nausea, il giramento di testa, la sudorazione, che colpiscono chi soffre di mal di mare o di mal d'auto. Mi scrive Paolo da Lecco, si chiama mal di terra e noi velisti ne soffriamo particolarmente dopo lunghe navigazioni. Nausea, occhi che tendono ad alzarsi e se si è in una stanza sembra che i muri ti vengano addosso. In linea con noi per suggerirci rimedi anti mal di movimento c'è il dottor Ciro Vestita, medico dietologo dell'Università di Pisa. Buongiorno. Buongiorno, eccoci a voi, buongiorno. Dottor Vestita, tempo di partenze, anche molto brevi, perché lo sappiamo, lo dico tutte le volte, le vacanze sono brevi, però la gente si muove anche per andare a trovare un parente. Ci sono persone, soprattutto i bambini, che soffrono il mal d'auto. Ma, come ci raccontava Paolo da Lecco, anche chi soffre il mal di terra, la sensazione che avvertiamo dopo che siamo scesi dalla barca. Che cosa si fa? Ci sono dei rimedi anti... Ci sono dei piccoli rimedi naturali. Se il problema è forte... La medicina naturale non fa nulla, quindi se noi sappiamo già che il nostro bambino di 8 anni appena ci mettiamo in macchina comincia a vomitare forte, bisogna ricorrere alla farmacologia ufficiale. Se invece la cosa è blanda, cioè accade praticamente in piccola sintomatologia, possiamo fare molto, ad esempio per un adulto, che è ancora più facile da curare, un centrifugato di succo di ginger, cioè di ginger praticamente la radice, lo zenzero messa in una centrifuga, ne bastano due cucchiaini prima di partire. In genere la nostra esperienza ci dice che nel 40-50% dei casi si abbatte questo tipo di sintomatologia. Nel bambino si può usare il succo di limone, che è altrettanto efficace, oppure dei rimedi omeopatici. In ogni caso però la piccola sintomatologia può essere curata, dei grandi disturbi assolutamente no. Per l'adulto funziona molto bene anche il ginkgo biloba in tintura madre, riesce a combattere questa chinetosi, il soggetto in genere sta meglio, per tanto se i disturbi sono lievi. La medicina naturale in questo caso può fare piccole cose fatte bene, solo e soltanto piccole. Tra l'altro il ginkgo ha anche altre proprietà, è il classico, no, il modo di prendere due piccioni, Nicoletta, con una fava. Guarda, io sono qui all'Orto Botanico di Roma a registrare per Linea Blu della RAI davanti a un ginkgo meraviglioso, ci sono dei ricercatori giapponesi che mi stanno spiegando che praticamente questa pianta non si ammala mai, è una pianta fossile, noi avevamo anche al tempo dei dinosauri, e la stanno studiando proprio perché è una pianta che non viene aggredita da nessun insetto, da nessun batterio, è probabilmente la speranza per l'immunità futura, anticancro soprattutto. Quindi il ginkgo va usato sotto controllo medico, ma sempre in maniera generosa, perché fa veramente dei piccoli miracoli. Grazie dottor Vestita. A voi, a presto. Buonissima giornata. Grazie. Noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sui mercati, poi torniamo subito dopo il meteo. 800 24 00 24, se vi sentite ogni tanto dentro una centrifuga, se il pavimento si muove sotto i vostri piedi, avvertite quel senso di ovattamento, si dice anche cammino sulle uova, se siete sognatori o se invece amate restare coi piedi per terra. Essere e benessere. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. E siamo tornati insieme. Equilibrio. Voi avete un equilibrio perfetto? Siete invece tipi, persone che amano e spesso hanno la testa tra le nuvole o i piedi ben radicati a terra? 800 24 00 24, qui in studio con me il professor Giorgio Guidetti, abbiamo anche in linea con noi Marco che ci chiama da Milano. Buongiorno Marco, bentornato, benvenuto. Buongiorno e grazie a voi. E avevo una domanda per il dottor Guidetti. Io non soffro assolutamente di vertigini, ho fatto roccia in gioventù e ancora adesso vado a prendermi le ciliegie sull'albero saltando direttamente da ramo in ramo. E quando vedo qualche immagine però alla televisione, al cinema, dove c'è una situazione di pericolo di una persona che sta sospesa, allora ho come un senso di paura, cioè un vuoto allo stomaco, che è del tutto ingiustificato, nel senso che non mi spaventa la realtà, ma mi preoccupa la finzione. Professor Guidetti, è la sua vista che è attivata e gli provoca quelle sensazioni che mimano esattamente una situazione di vertigine, quindi anche la vista può fare brutti scherzi. Sì, sì, è veramente una cosa molto comune. Quello che dei segnali visivi particolari scatenino i giramenti di testa. Una cosa tipica è per esempio quando passa un treno che ti senti destabilizzato, ti senti cadere da una parte o dall'altra o addirittura verso il treno, ma nel caso specifico dell'ascoltatore c'è qualcosa di più che è ancora più interessante volendo da disseminare, cioè abbiamo quella che si chiama praticamente la simpatia, cioè quella di provare le stesse emozioni che si pensa che stia provando il protagonista dell'evento che si sta osservando. E questo è qualcosa di molto bello. D'altra parte pensate che ci sono anche i neuroni specchio, no? Che ci fanno vivere delle sensazioni e provare delle reazioni che sono simili. E nel suo caso si direbbe che la cura è diventare meno buono. E quindi potrebbe portare le ciliegie che coglie saltando da ramo in ramo e le regala a noi, e quindi... Esatto. Sì. Professor Guidetti, abbiamo parlato di vertigini. Questo senso di giramento, di centrifuga, può capitare in diverse occasioni. Ci sono le persone che si alzano dalla sedia e dicono «Oddio mio, mi gira la testa» e pensano alla pressione. Questa stessa sensazione si avverte a volte quando siamo a letto. Alcune persone lo raccontano come una sorta di inciampo, come quando si inciampa in un marciapiede. Altre persone invece devono proprio ancorarsi al materasso perché avvertono questa sensazione di grande movimento. La domanda è: sono vertigini entrambe, capogiri, vertigini, indipendentemente dal momento in cui si manifestano e dal luogo, oppure c'è una differenza se provo la vertigine quando sono in piedi rispetto a quando sono sdraiato? Allora, sì, è vero, sono due casi abbastanza frequenti, anzi, uno di questi è forse il tipo di vertigine più frequente. Vedere tutto il mondo che va in centrifuga quando ti sdrai, ti alzi, guardi verso l'alto, guardi verso il basso. In questo caso è una malattia dell'orecchio quasi sempre provocata dalla formazione di microcalcoli nell'orecchio, di piccoli calcoli che si formano e durante quei movimenti vanno a fare dei falsi contatti. È una vertigine che spaventa da morire, ma forse è la più semplice da risolvere perché quasi sempre adeguatamente identificata viene risolta con apposite manovre che vengono, ce ne sono tantissime di queste manovre, ma una per ogni tipo di problema di questo genere, e però insomma tolgono il disturbo e lo tolgono anche rapidamente in un modo estremamente piacevole per il paziente e anche di soddisfazione per il medico. Diversa è la sensazione di sprofondare o di insicurezza quando si sta in piedi, spesso questo è legato ai circuiti di lettura della forza di gravità. E in questo caso il discorso non è così banale da risolvere, richiede certamente la ricerca delle cause, ma soprattutto adeguate terapie che rimettano in sesto i circuiti che stanno sbagliando a dare le informazioni o ad elaborarle. Nicola da Brescia e Marco da Milano. Buongiorno Nicola. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per l'ospitalità. Vorrei chiedere ai vostri esperti. Quando in macchina prendo delle curve veloci, mi viene un senso di nausea forse, e vorrei sapere se è dovuto... Perché le curve vanno prese piano. Sì, però in autostrada diciamo velocità di codice, però le curve strette si prendono così. Allora, e le dà nausea, senso di vertigine? Ecco, un senso di nausea, ma se è dovuto all'età, è qualcosa di irreversibile o c'è qualche speranza? Grazie. Grazie Nicola, il guidatore. Professor sì. Guidetti, tra l'altro lei sulla guida aveva proprio fatto uno studio molto interessante sui movimenti oculari della guida. Infatti penso che il problema sia di questo tipo. Allora, ammesso, e dato che speriamo che sia così, che non abbia una malattia dell'orecchio che non gli permette di leggere la velocità con cui affronta la curva, direi che la causa più probabile sta nel fatto che mentre lui fa una curva guarda da un'altra parte rispetto a dove dovrebbe guardare, non guarda il punto di curva ideale dove dovrebbe far passare l'auto. Se lui imposta nella mente la curva nella maniera che ritiene giusta, ma contemporaneamente guarda da un altro punto, per esempio guarda alla sua sinistra se sta curvando a destra, cosa che succede circa l'80% delle persone, crea un bisticcio tra i sensi e avverte questo senso di mal di mare che ne consegue. Quindi deve imparare a controllare bene la posizione degli occhi mentre guida. Marco da Milano, è molto interessante perché dove puntiamo gli occhi, dove posiamo lo sguardo, ci dà anche l'equilibrio, fa la differenza. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo raccontare una mia esperienza che è di vertiginoso da tantissimi anni, cioè, nel senso che le prime vertigini sono comparse quando ne avevo 20, grosso modo, e mi riallaccio a quello che aveva detto il professore, erano molto, diciamo, erano attese, cioè ero in una sensazione costante di attesa della vertigine, perché avevo queste sensazioni di instabilità, mi facevano molta paura, e tutto è rimasto così in questi termini, con queste sensazioni di vertigine latente, diciamo così, finché non sono arrivate le vere vertigini durante una vacanza all'isola d'Elba, dove mi hanno addirittura recuperato e non hanno trovato praticamente nulla, nulla al momento di evidente. Comunque sta di fatto che vertigine violentissima, mi ha impedito di continuare a guidare, mi hanno trasportato e è stata veramente fastidiosa. Devo dire che ho fatto tutta una serie di analisi, la diagnosi è stata insufficienza vestibolare, cioè mi sembra sostanzialmente una diagnosi, come dire, le vertigini ce l'ha perché ha le vertigini, una cosa del genere. Sono passate o sono così, rimaste? Sono abbastanza passate, soprattutto devo riconoscere che l'aspetto di non aspettarle più, di non averne più paura, bravo Marco. Professor Guidetti, perché c'è la paura di avere delle vertigini e di avere lo stesso problema e in qualche modo attiva tutta una serie di meccanismi che ci portano a caderci dentro. Eh sì, portano alla cronicizzazione della sensazione vertiginosa. Quello che ha raccontato intanto fa pensare che abbia, tra virgolette, un apparato vestibolare davvero imperfetto e che quindi diciamo sia a maggiore rischio rispetto ad altre persone di approvare queste sensazioni. Però se riesce a dominarle, se riesce ad adattarsi perfettamente a questo eventuale piccolo difetto della funzione vestibolare, rimarrà per sempre normale, non avrà più queste sensazioni, questo è una quasi certezza. E quindi, professor Guidetti, il messaggio che possiamo dare agli ascoltatori che si ritrovano ad avere a confrontarsi con problemi di equilibrio e con la paura quindi di avere queste sensazioni è di lavorare anche un po' sulla componente emotiva. Assolutamente sì. Imparare a, anzitutto, farsi spiegare bene qual è il tipo di patologia. Farsela spiegare bene significa fare domande e ricevere risposte relativamente alla possibile causa, ai meccanismi di recupero e agli eventuali fattori in grado di destabilizzare nel futuro il recupero ottenuto. Questo molte volte è più che sufficiente per togliere questo rischio di emotività sbagliata che va a creare la cronicizzazione. Se tutto ciò non è sufficiente, bisogna farmacologicamente correggere il problema e poi c'è la possibilità di fare i cicli di rieducazione vestibolare dove il paziente viene preso per mano, viene portato in condizioni di difficoltà di equilibrio con macchine apposite e impara con l'aiuto dei medici e dei tecnici ad affrontare il problema. Professor Guidetti, spesso queste condizioni vengono accompagnate da un altro segnale, un segnale di cui abbiamo parlato tante volte, sono i fischi, ronzii, le cascatelle, in una parola solo agli acufeni, ne parleremo tra poco perché come dei bachi si infilano nel nostro orecchio e ci tormentano. Si può fare qualcosa? Essere e benessere. Ritrovare l'equilibrio, mantenere l'equilibrio. A proposito, c'è una disciplina che aiuta a tenere i piedi per terra, non solo, a vincere quella sensazione di sofferenza, di mal di mare, di mal d'auto, ma anche di centrifughe, di pavimenti che si muovono. È una disciplina che ci fa ritornare in asse. Il Tai Chi, alleato della salute. L'antica disciplina orientale non solo aiuta a ritrovare serenità e armonia per mente e corpo, ma può anche essere un rimedio contro le vertigini. È quanto emerge dallo studio dell'Accademia Americana di Otorinolaringoiatria, che sottolinea come la disciplina orientale è efficace nel trattamento di pazienti che soffrono di vertigini e disturbi dell'equilibrio. La tecnica potrebbe essere efficace, spiegano i ricercatori, perché piuttosto che tramite lo sforzo muscolare, promuove il coordinamento attraverso il rilassamento. Ecco, professor Guidetti, rilassamento. Rilassamento emotivo, il rilassamento che avviene anche attraverso una respirazione più consapevole, al posto dello sforzo muscolare. Questa è un po' la parola chiave. Certamente. È più importante lavorare sul cervello e sulle emozioni che non lavorare sul muscolo punto e basta. E d'altra parte noi sappiamo che le nostre componenti emotive sono facilmente influenzabili da tutto ciò che può attivare le memorie e le emozioni. E l'attività del nostro cervello e del nostro corpo in particolare sono influenzabili da tutto ciò che vediamo, che ascoltiamo, dal ritmo delle parole, del movimento e della musica. Voglio leggere, noi torneremo naturalmente su questo aspetto perché è questo un po' il consiglio che vogliamo darvi, il secondo. Il primo è: in presenza di disturbi parlatene con il vostro medico. Il secondo: non sottovalutate l'aspetto emotivo, perché la psiche, come abbiamo avuto già modo di sottolinearlo più volte, parla al nostro corpo, a soma, e lo condiziona. Vorrei leggere alcuni messaggi. Si può contrastare, ci scrive Eros da Rimini, la creazione dei calcolini nell'orecchio? Eros è andato avanti perché nel nostro orecchio è responsabile di queste sensazioni di malessere, di un equilibrio alterato, ci sono questi sassolini che vengono chiamati, sono gli otoliti. Sì, sono otoliti quando stanno al loro posto sul piatto di gelatina dove devono fare da livella. Quando si staccano diventano appunto, diciamo così, calcolini, nel senso sono oggettini liberi di muoversi nella struttura. La domanda è più che pertinente, addirittura piacevole, perché la facilità con cui riusciamo quasi sempre a eliminare i calcolini di primo acchito fa sì che ci si preoccupi raramente del rischio delle recidive, mentre ci sono persone che sono sfortunate e producono continuamente questi calcoli. Ora, è chiaro quindi che ogni qualvolta uno ha questo tipo di vertigine violenta, detta vertigine parossistica posizionale, ed è stata identificata la presenza dei calcoli, non si deve limitare a pulire il calcolo e eliminarlo. È inutile vuotare il cestino senza chiudere il rubinetto. Il rubinetto va sempre cercato. E se lo si trova, e può essere per esempio un disturbo dei capillari dell'orecchio, può essere la produzione di particolari anticorpi, bisogna poi fare la terapia preventiva per evitare le ricadute. In questo senso si può prevenire la formazione dei calcoli. Professor Guidetti, abbiamo accennato che insieme al disturbi dell'equilibrio a volte si manifesta un malessere molto fastidioso, che è il classico acufene. Quindi la persona che, oltre a sentirsi un po' girare tutta per aria, avverte anche un fischio, che cosa deve fare, che cosa deve pensare? È più compromessa la centralina dell'equilibrio in questo caso? Allora, il fischio, qualsiasi caratteristica abbia, in generale un segnale d'allarme. Io dico sempre che è come sentire dolore alla spalla, non vuol dire altro che c'è un problema da qualche parte nella spalla, così di solito c'è un problema nell'orecchio. Può essere un problema legato solo alla parte dell'udito, dell'orecchio. Vi ricordo che l'orecchio ha due zone, una per l'udito, una per l'equilibrio, tra di loro connesse, ma due zone distinte. Oppure può essere anche il segno di una situazione più complessa dove anche l'equilibrio è a rischio. Capita spesso di esaminare una persona perché si lamenta di un acufene e di trovare che stava per avere anche dei disturbi dell'equilibrio. Ci sono varie malattie che sono caratterizzate da questo tipo di condizione. Tipicamente ricordate che il fischio all'orecchio, per esempio, è il primo segno degli sbalzi di pressione, insomma, perché la circolazione dell'orecchio è particolarmente fragile e quindi misuratevi la pressione. Se è la prima esempio, volta che sì, avvertite, sì, non pensate subito a un tumore cerebrale, ecco, no, pensate piuttosto ad avere qualcosa di abbastanza comune con il 35-40% della popolazione italiana, cioè questa esperienza di un rumore all'orecchio che chiaramente, quando diventa ossessivo, molto violento e persistente, è chiaro che promuove tutta una serie di emozioni antipatiche che ti portano a pensare al peggio, ma generalmente dietro non ci sta nulla di grave. A proposito di questo rumore fastidioso che non riusciamo a toglierci dalla mente, proprio il caso di dire, come i tormentoni, siamo in estate, anche quest'estate avrà il suo tormentone, quei ritornelli che anche quando non vuoi continui a canticchiare, averli in mente. Ecco, c'è una similitudine tra l'acufene e il tormentone. In fondo bisogna approcciarli nello stesso modo, fare finta di niente. Esatto, ci sono due modi per affrontarlo, a parte il tentativo farmacologico di rimuovere la causa se è stata identificata, o tentare di mascherarlo come si faceva fino adesso, cioè chiodo schiaccia chiodo, metto un rumore più forte, tutti sanno che mentre lavorano di giorno non sentono il rumore, di notte lo sentono in silenzio. Ma ci sono anche tecniche adesso più raffinate con cui si cerca di rimuovere dalla memoria, dall'attenzione, questo fenomeno, e in un certo senso antagonizzandolo, per esempio con suoni piacevoli che anche a basso volume costringano il cervello ad ascoltare più qualcosa che piace che non questo segnale fastidioso di sottofondo. Andiamo ad Andrea che ci chiama da Palermo. Buongiorno. Sì, buongiorno. Andrea, buongiorno a lei, benvenuto. Gentilissimo per avermi richiamato e complimenti per la trasmissione, interessantissima. Grazie. Allora, io sto cercando un po' un rimedio perché siccome vado in discoteca spesso, allora dopo una, diciamo, brutta esperienza, che ho avuto un brutto fastidio all'orecchio nei giorni successivi, ho cercato di sperimentare la soluzione e ho provato con i tappi per le orecchie. Mm-hmm. Cioè, può sembrare assurdo, però pur di, diciamo, non rinunciare ad andare in discoteca o comunque preservare il mio udito. A me ha fatto con i tappini, eh? Sì, con i tappini, non vorrei fare pubblicità, però sono quelli, vabbè, diciamo, rosa, un tappo, quelli sì, morbidi. Va bene, un tappo vale l'altro. Professor Guidetti, si va a ballare con tappi o senza tappi, o lei che cosa dice? Io dico che si va a ballare stando attenti a non esagerare con la musica come volume, perché chiaramente non è che fa solo dei danni momentanei, alla lunga sono martellate. E non è una bellissima idea. Il tappo, come anche sull'ambiente di lavoro, per quelli che hanno degli alti livelli di suono sul lavoro, è chiaro che è una protezione piuttosto che niente. Si chiama Elevazione, un brano tratto dal disco Sunrise di Giovanni Allevi, che è in linea con noi. Giovanni, ciao! Buongiorno, ciao! Finalmente t'ho pescato! Sono felicissimo di essere qui con voi. Senti, l'ho scelto perché questo brano è uno dei miei preferiti, ma anche per soddisfare una mia curiosità, perché nel libro del CD a questo brano, a Elevazione, tu abbini una foto in cui ci sei tu in equilibrio su un masso. Che ci facevi e perché questa foto per questo brano? Sì, quella foto. Perché io volevo raccontare in una foto cosa è diventata la mia vita. Cioè essere in equilibrio tra forze e dinamiche che sono a me sconosciute. Sì, perché in fondo scrivere musica sinfonica e poi portarla al cuore della gente è un gesto misterioso, no? Attraverso cui io sperimento un continuo cambiamento interiore, ecco. E quindi devi rimanere in equilibrio, e soprattutto sì. Giovanni, tu devi rimanere in equilibrio, perché soprattutto in questo periodo dell'anno sei veramente, giri per l'Italia con il tuo tour. Stasera sarai a Sordevole, una tappa del tuo Sunrise Tour che continuerà tra l'altro per tutta l'estate, quindi hai un bel da fare a rimanere in equilibrio. Ma io non voglio rimanere in equilibrio, questo è quello che vorrei dire. Nella musica c'è un aspetto equilibrato che riguarda la struttura razionale, ma tutto il resto è davvero un minestrone, questo intendo. E questo è anche il consiglio di Giovanni Allevi. State un po' con la testa tra le nuvole. Professor Guidetti, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi che ci avete seguito. Un bacio a Giovanni. Filippa Oreggi regge la parte tecnica. Laura Manossi in redazione. Per oggi è tutto. Noi ci sentiamo domani. Essere e benessere.